La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 16 di marzo, 16:30 primi 49 secondi, in diretta dagli studi di Radio 24 qua di Milano. Oscar Giannino vi saluta e ringrazia per l'ascolto, e per chi ci scarica in podcast vi ricorda come sempre l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi, ospiti, critiche, eccetera. Anche la puntata di oggi nasce dalla segnalazione di un ascoltatore barese, e capirete perché metà della trasmissione è dedicata esattamente a una storia che avviene in Puglia, e poi ce n'è un'altra che avviene in Sicilia. Che cos'è che unisce queste due storie per consentirvi di decidere se telefonare all'800 24 00 24 per intervenire e per mandarci opinioni al 3492 386 666 sugli sms che cerco sempre di leggere, seppur raggruppati per tema, perché a leggere tutti non ce la farei. Sono due storie diverse ma unite dallo stesso segno. Che cosa avviene in Puglia ce lo faremo spiegare tra poco dal primo ospite. È la storia di un'azienda in crisi da molti anni, che aveva centinaia e centinaia di dipendenti, ma ne rimangono dopo lunghissimo periodo di cassa integrazione guadagni 194, comunque lavoratori tanti, la OM Carrelli, e che finisce per essere oggi in carico alla città metropolitana di Bari. Cioè, i privati, prima la multinazionale tedesca che ne era proprietaria, eccetera eccetera, bandiera bianca, e oggi nell'Italia della lunga crisi, che speriamo in qualche maniera lasci il posto a una ripresa, può capitare che città si trovino a dover gestire la riallocazione, il futuro, speriamo positivo, oltre che la vita di centinaia di dipendenti di aziende che rimangono con il loro perimetro, le loro strutture, i loro impianti, ma che non trovano privati desiderosi di gestirle e di rilanciarli. E che cosa può capitare quando un comune si trova in una condizione di questo tipo, cioè quando si trova lui a dover poi rispondere a centinaia di dipendenti che ovviamente finiti, gli ammortizzatori sociali sono disperati? Ce lo faremo spiegare. Seconda storia, in questo caso anche un proprietario pubblico, la Regione Sicilia, un proprietario pubblico pluridecennale in una grande impresa che era un pezzo del monopolio minerario che è stato storia nella Sicilia nel secondo dopoguerra. La Regione Sicilia ha il 51% proprietaria di un'azienda che si chiama Italcali, e che produce più del 50% del sale grosso che si vende in Italia, per essere chiari, che ha un bilancio di 65 milioni di euro e che è inutile da anni e anni, quindi un'azienda solida, ben strutturata. In questa azienda i privati, la famiglia Morgante, da sempre però hanno la gestione con una quota di minoranza. E adesso, nel silenzio generale, in un paese che non privatizza quasi niente, anche nel 2014 di fronte a 10 miliardi di incassi da privatizzazione promessi dal governo, ne abbiamo avuti 5,7 miliardi e senza mai cedere il controllo di nulla, ecco che invece in Regione Sicilia inaspettatamente si presenta il fantasma della signora Thatcher, perché il 51% di Regione Sicilia in questa impresa inutile e con pochissimi debiti, tra virgolette, decade, non ci sarà più, e i privati subentreranno con un prezzo che, a fronte, lo vedremo, del bilancio, degli utili, delle prospettive di questa società che ha appena annunciato investimenti per 200 milioni di euro con altri 300 assunti, sono un punto interrogativo. Ecco, due pezzi diversi dell'Italia proprietaria pubblica, per così dire. Il primo, la disperazione col pubblico che subentra e si trova in difficoltà, perché voglio vedere come potrà esserne all'altezza, speriamo di sì, ma è molto complicato. E un altro pezzo invece di pubblico in maggioranza che improvvisamente, tra virgolette, decade e fa una privatizzazione con molti punti interrogativi, di cui pochissimi in Sicilia parlano. Ne ha parlato Gerevini sul Corriere l'altro ieri, ma se cercate sui giornali siciliani pezzi, ricostruzioni, eccetera eccetera, di questa storia di Italcali, che si chiama così la società, troverete poco o nulla. E bisogna chiedersi naturalmente perché Quindi se siate in Puglia, se siate in Sicilia o se ne sappiate qualche cosa, qualunque cosa vi ispirino queste due storie, chiamateci, perché noi naturalmente vi sentiremo e soprattutto gireremo le vostre telefonate ai nostri ospiti. Per parlare della prima storia, cioè della OM Carrelli, che si trova adesso con i suoi 194 lavoratori, dopo che la pratica era passata al Ministero dello Sviluppo, dopo che era andata avanti dal 2012 la cassa integrazione, si trova a essere, per così dire, amministrata, gestita, riallocata, la prospettiva deve essere questa, dalla città metropolitana di Bari. Abbiamo con noi il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che ringrazio per essere ai nostri microfoni. Buon pomeriggio, signor sindaco. Grazie a voi e buon pomeriggio a voi. Allora, la mia prima domanda è, la storia è lunga della crisi di questa azienda, e posso farle una domanda? Ma lei, come sindaco della città metropolitana e come sindaco di Bari, in realtà che poteri avrà? Cioè, questo subentrare è un titolo simbolico o concretamente si sente in grado di dire ai dipendenti, e per tutti i casi simili in Italia che possono capitare, che in questo caso il sindaco di una città metropolitana può riuscire laddove i privati hanno solo alzato bandiera bianca? Il sindaco della città metropolitana in realtà utilizza una legge dello Stato che permette al pubblico di acquisire gratuitamente un immobile, è un edificio molto grande e con impianti che hanno una rilevanza economica anche importante, ci sono carri ponte, impiantistica all'avanguardia. Lo acquisiamo gratuitamente anche grazie a un accordo fatto con la Kion, che è la società che gestiva l'OM Carrelli Elevatori, che l'ha gestita per tanti anni, che aveva deciso di dismettere la fabbrica. Sono andati a vuoto incontri, relazioni tra la Regione Puglia, il Ministero e alcuni privati che si sono affacciati nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. Però perché c'era stata un'azienda dell'automotive piemontese che si era fatta viva a un certo punto tra fine 2012 e 2013, poi ha deciso di investire altrove. Guardi, io ho fatto in soli 5 anni, ho fatto il consigliere comunale, il consigliere regionale e il parlamentare, quindi le ho viste tutte con la stessa azienda e con aziende esterne che si affacciavano all'OM Carrelli Elevatori, che erano aziende che dovevano costruire taxi ibridi, un'azienda che costruiva pannelli, monitor, schermi anche di grandi dimensioni, c'erano aziende che costruivano autobus. In realtà non è mai andata a buon fine, compreso l'ultima, che se non ricordo male era la Metec, che è la società che poi ha deciso di andare a Termini Imerese, forse perché sono, diciamo, lavorano prevalentemente con la Fiat, che stava lasciando quel sito e quell'attività industriale. La città metropolitana di Bari, insieme al comune di Bari e al comune di Bitonto, dove è ubicato l'immobile, con precisione un comune limitrofo alla città di Bari, insieme all'ASI, che è l'area di sviluppo industriale, abbiamo deciso di acquisire la proprietà grazie a questa legge dello Stato, in modo da tenere che tra l'altro è una legge, la 604, che piace in Puglia, perché già aveva un precedente a Ginosa, proprio, no, non sbaglio, con la Miroglio. Sì, era stato fatto tempo fa. Questa è la prima volta che però non solo diventa di proprietà pubblica, ma viene anche gestita temporaneamente dal pubblico, nel senso che il pubblico si fa carico, attraverso i lavoratori dell'OM, che comunque hanno a disposizione un ammortizzatore sociale ancora per un anno, abbiamo deciso di gestire sia la manutenzione che fare l'attività di sorveglianza dell'immobile. In questa maniera abbiamo la possibilità di dire alle aziende private, che comunque continuano ad affacciarsi, ce ne sono sei, diciamo un paio, ovviamente non posso fare i nomi per questione di riservatezza, hanno diciamo dimostrato un fortissimo interesse, anche una forte capacità imprenditoriale, non sono nemmeno tutte italiane queste aziende, diamo la possibilità a questo privato di sapere oggi, nel momento in cui si fanno le trattative, che riceveranno gratuitamente questo immobile. È chiaro che l'immobile, anche grazie a questa legge dello Stato, sarà legato in maniera indissolubile ai lavoratori dell'OM, perché abbiamo fatto questo sforzo come pubblico per tenere in mano un immobile che diventa pubblico, ma si lega all'attività di questi lavoratori. Quindi chi verrà qui avrà la possibilità di ragionare col Ministero, ma sicuramente di ragionare con la Regione, che finanzia attraverso accordi di programma la riconversione industriale fino a un massimo del 30%, dietro la presentazione ovviamente di un piano industriale e un finanziamento del 70%, che ovviamente deve essere privato. Noi mettiamo a disposizione gratuitamente questo immobile. Quindi questa è la nostra intenzione. Abbiamo avuto paura che Kion, non paura, la certezza che Kion a fine mese avrebbe proceduto con la vendita dell'immobile. In quel caso si sarebbe spezzato il legame tra l'immobile e i macchinari e i lavoratori, e siamo intervenuti per l'acquisizione, diciamo, del sito industriale, del capannone industriale. Quindi aspetti, il subentrare nel titolo proprietario dei capannoni e dell'immobile avviene in forza di legge con il privato, la Kion, appunto, la multinazionale tedesca, che non era d'accordo? No, la Kion non era d'accordo e lo mette a disposizione gratuitamente. Ecco. Quello che la Kion non poteva più fare vendere. È aspettare ancora, no, volevano vendere perché a un certo momento, passato un certo numero di anni, non avevano più intenzione di aspettare che arrivasse un privato per fare una trattativa ministeriale o regionale. Volevano smobilizzare il trasferimento, certo, perché loro, a loro costa come tasse, non so, l'IMU, certo. Tassa sui rifiuti, parliamo di svariati, diciamo, di qualche centinaio di migliaia di euro, ha un costo l'attività di manutenzione, ha un costo l'attività di sorveglianza, che ovviamente non volevano più sostenere, e quindi avevano comunicato che avrebbero proceduto con la cessione dell'immobile. La cessione dell'immobile avrebbe comportato, ripeto, l'interruzione del rapporto tra l'immobile e i lavoratori. Non avevamo più la certezza che il privato che si affacciava avrebbe ricollocato al lavoro quelle persone che il lavoro l'hanno perso circa 5 anni fa. Quindi il pubblico interviene, si sostituisce alla Kion, acquisisce la proprietà immobiliare gratuitamente. Abbiamo fatto una sorta di consorzio tra enti pubblici e abbiamo deciso di gestirlo noi, in attesa che... Posso chiedere una cosa? Per al pubblico che subentra, quindi facendo la somma di tutti gli enti, ma soprattutto cominciando dalla città metropolitana di Bari, quanto costa un'operazione di questo tipo? Non le chiedo la cifra precisa all'euro, ma per avere un'idea degli oneri. Gli oneri sono zero, per fortuna, il passaggio di proprietà proprio in virtù di quella legge, perché certo, altrimenti avrebbe avuto un costo di circa 4 milioni di euro il sistema della tassazione sull'acquisizione dell'immobile, quindi non ci costa nulla, costa un mancato... Precisiamo, cioè sarebbe stato il corrispettivo fiscale, non il prezzo pagato. No, il prezzo è decisamente più alto, avremmo pagato 4 milioni di euro come tasse, esatto, per l'acquisizione, anche se gratuita, dell'immobile, che però avendo un valore per lo Stato andava tassato. Grazie a questa norma, a questa legge, l'abbiamo potuto acquisire senza pagare le tasse. Ci sarà un mancato versamento, diciamo, sempre di tasse per il comune di Modugno, che è il comune all'interno del quale è ubicato il capannone. Parliamo di circa 190.000 euro all'anno di IMU, che è la tassazione sulla proprietà dell'immobile. È chiaro che il comune di Modugno non pagherà l'IMU a se stessa, ma comunque non riceverà più l'IMU dalla Kion, ovviamente per un anno sono 190.000 euro. Se riusciamo a ricollocare, a riconvertire l'azienda e individuare il nuovo proprietario, è chiaro che sarà per numero di mesi in dodicesimi la mancata acquisizione di queste tasse. E nel caso, appunto, della procedura scattata in questo caso con questa legge di cui vi siete avvalsi, le comunità pubbliche locali che intervengono hanno, per così dire, un diritto più forte nei confronti del tavolo centrale, cioè del ministero, per gli impegni del privato che subentrasse? Perché lei sottolinea molto fortemente questo vincolo che avete assunto a tutela dei dipendenti, ma con questa procedura è più forte il vincolo di quanto sarebbe stato se fosse rimasta la semplice pratica aperta sul tavolo al MISE con il ministro Guidi? Se si fosse venduto l'edificio, il capannone, è chiaro che sia il MISE sia la Regione Puglia non avrebbero avuto più lo strumento per facoltà, poter dire a un privato di facciamo la riconversione e assumi il personale, non era più, come dire, obbligatorio. Oggi invece abbiamo un immobile e la forza delle amministrazioni pubbliche è di dire al privato: guarda che io l'immobile te lo cedo gratuitamente, ti do gratuitamente un immobile, ti do gratuitamente dei macchinari, magari in questi mesi ci saranno meno tasse versate per il comune di Modugno, che magari chi acquisisce l'immobile poi dovrà versare successivamente al comune di Modugno. Noi facciamo una gestione in autonomia senza ulteriori oneri attraverso i lavoratori che stanno ricevendo l'ammortizzatore sociale. È quindi diciamo al privato: guarda, ti do questo capannone, questi macchinari, gratuitamente, legato ovviamente ai lavoratori, mi devi assumere i lavoratori. È chiaro, signor sindaco, levi una curiosità a noi e a chi in ascolto e chiede: ma come mai allora, poiché ci ha appena spiegato, è più forte la voce delle comunità pubbliche locali in caso di subentro in applicazione di questa legge, come mai i suoi colleghi nell'ambito dell'ANCI e così via, di fronte a migliaia di aziende che purtroppo hanno subito vicende analoghe a quelle dell'OM Carrelli, sono stati molto più riluttanti di quanto non sia stati, siete stati voi a Bari e prima a Ginosa con la Miroglio per utilizzare la facoltà concessa da questa legge? Qual è la ragione secondo lei per cui il PDS... Perché sicuramente un'attività di questo tipo non è un'attività propria, che sta nelle corde, se mi passate il termine, di un comune. Certo. La regione può, diciamo, fungere da postino, cioè ricevere l'avvertenza e trasferirla al MISE, che è il tavolo del MISE è il tavolo deputato a questo tipo di attività. È chiaro che, essendo lavoratori, persone della nostra comunità, del nostro territorio, che soffrono in questo momento particolare di crisi economica e di forte frammentazione anche dal punto di vista sociale, per noi, diciamo, diventa un dovere preoccuparci di queste persone adesso, perché altrimenti tra qualche mese, quando perderanno anche l'ammortizzatore sociale, saranno cittadini senza ammortizzatori sociali, dei quali comunque i comuni interessati si dovranno far carico. Quindi riteniamo, diciamo, opportuno cercare di risolvere il problema a monte. Adesso siamo noi, sempre insieme al MISE e alla Regione Puglia, a cercare di coordinare una attività che spero ci permetterà nei prossimi mesi. Le faccio un'ultima domanda prima di salutarlo, mettendo insieme un po' di sms che vengono dai nostri ascoltatori. C'è qualche critico, i più invece sono interessati e curiosi perché non sapevano di questa facoltà, ma alcuni chiedono: ma un immobile gratuito, perché il sindaco ci ha appena spiegato appunto che c'è l'esenzione da parte di coloro che sono subentrati in pubblico adesso a pagare le tasse, non è concorrenza sleale nei confronti di altri impianti in crisi in cui invece i privati si trovano comunque a dover pagare le tasse come oneri che rimangono anche cessate le attività? Cosa risponde a questa domanda, signor sindaco? Rispondiamo che noi cerchiamo di affrontare sul nostro territorio tutte le vertenze che si sono aperte. Adesso ne abbiamo questa aperta, è quella più lunga, è aperta da 5 anni, e abbiamo deciso, perché abbiamo riscontrato anche la disponibilità da parte di Kion a fare una cessione gratuita dell'immobile. Se non ci fosse stata ovviamente questa disponibilità, mica potevate fare un esproprio, certo. Non potevamo né espropriare né saremmo stati nelle condizioni di con pagare. I bilanci certo. In crisi di poter pagare il valore di quell'immobile. Devo dire la verità, la Kion alla fine, che comunque era la proprietaria del marchio dei Carrelli Elevatori, chiaramente non è che ha ceduto l'immobile così e basta, ha messo anche una, come dire, pregiudiziale, nel senso che nel trasferimento dell'immobile e nella riconversione dell'attività è ovvio che non vogliono aziende che si occupano di Carrelli Elevatori, altrimenti andrebbero in concorrenza con loro. Quindi va abbiamo bene, però questa occasione, vale la pena di rischiare per trovare comunque un subentrante e difendere la base produttiva. Comunque, certo. Penso che nel giro di un mese potremmo dare, diciamo, delle risposte concrete. Va bene, nel qual caso noi ci facciamo vivi, perché a me interessava proprio spiegare lo strumento a chi era in ascolto, perché non è così diffuso, anzi è rarissimo nel nostro paese. Intanto la ringrazio. È la seconda volta che viene utilizzato nel nostro paese, 2 volte è successo in Puglia. Questa è la prima volta che c'è anche una forma di autogestione, quindi il primo caso in Italia. Beh, e questo, come puoi immaginare, molti nostri ascoltatori dicono: ma è una versione un po' troppo rossa. Però al di là del giudizio politico, questo è un caso da spiegare, perché ripeto, altrove non si fa, e la mia speranza è che davvero poi private si facciano vivi e non ci siano soluzioni pubbliche. Intanto grazie signor sindaco Strade, torniamo tra 60 secondi con il caso invece di Talcari, completamente diverso in Regione Sicilia. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta al 16:50, primi anzi 51. Abbiamo visto una vicenda del segno particolare, la città metropolitana di Bologna, di Bari, che diventa proprietaria a tutti gli effetti di dell'OM Carrelli di Modugno, cioè di un'azienda in crisi, e che si occuperà adesso, avendo più voce in capitolo di quanto facciano le altre comunità, grazie a questa legge a cui ha fatto ricorso, della tutela della base occupativa operativa della base occupazionale, quindi dei dipendenti. E cambiamo obiettivo, sempre stato proprietario, ma stato proprietario al 51% di un'azienda che è un pezzo storico dell'ex monopolio minerario pubblico in Sicilia, la Italcali, Italcali da cui viene più del 50% del Sargrosso italiano, e che aveva appena annunciato poche settimane fa un enorme programma di investimento per 200 milioni rotti e 300 occupati per diventare prima produttrice in Italia del solfato di potassio e seconda in Europa addirittura, un'azienda che ha un bilancio di 65-70 milioni, inutile, non in difficoltà, debiti bassi, un'azienda che storicamente dà ai privati, la famiglia Morgante, che hanno una quota minoritaria, la gestione per statuto, ed è un'azienda in cui dall'inizio di quest'anno la quota pubblica al 51% Regione Sicilia decade, tra virgolette, decade. È una storia di cui c'è traccia nei giornali degli anni passati, perché l'impegno a cederla era nel tempo più volte ribadito, adesso diventa operativo e la sorpresa è che alla famiglia Morgante andrà la quota maggioritaria per una cifra che a molti fa grattare la testa, perché si tratta di 2 milioni e qualche cosa, non di più. Non grande dibattito sui giornali siciliani, Gerevini sul Corriere ne ha scritto l'altro ieri, e tentiamo di capire come mai la Thatcher si manifesti in un paese che non privatizza quasi nulla in Regione Sicilia, con una modalità di prezzo però che fa un po' grattare la testa, visto che si tratta di un'azienda inutile, con pochi debiti, e c'è un patto con un privato minoritario che già gestiva. E allora è con noi per parlarne Bruno Marziano. Bruno Marziano è presidente della Commissione Attività Produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana ed è del PD. Buon pomeriggio e grazie presidente. Buon pomeriggio ai vostri ascoltatori. Come mai, sempre che sia vero, perché sono indiscrezioni giornalistici, si paga così poco ai Morgante la quota di controllo di un'azienda inutile e che annuncia investimenti e dipendenti di questa portata? Ma perché il governo regionale avrebbe scelto di procedere alla vendita partendo dal valore nominale delle aziende, quando invece, a detta dei più, me compreso, sarebbe opportuno valutare il valore reale delle azioni da un advisor. Quindi qui è sul valore del capitale dichiarato di Libero, certo, non sull'utile e sul fatturato. Assolutamente no, c'è una volontà ormai consolidata della regione siciliana di cedere tutte le attività non strumentali, tra cui rientra. E su questo, guardi, io sono d'accordo. Sul prezzo, però. No, ecco, tant'è che abbiamo fatto già nel 2009 una legge regionale che imponeva, esatto, alla regione stessa di cedere queste azioni. Sì. Nel frattempo, la società Italcali, che ha in programma la coltivazione di un grande campo di cainite, che sì, è la, sì, la base per la produzione del solfato di potassio, ha chiesto di poter per poter fare questo grande investimento l'applicazione di questa norma, che si è rafforzata ulteriormente con la legge nazionale, ma in Sicilia si deve procedere sulla base della legge regionale del 2009. Ma è possibile mai cedere un'azienda di questo tipo con il valore fatto sulle quote di capitale? Nessuno di noi quindi si sogna di impedire o bloccare la un gestione, processo di privatizzazione. È meno male, però il prezzo è quello che. Ma voi siete in grado di fare qualcosa all'Assemblea Regionale Siciliana sul prezzo? Ma oppure guardi, la vicenda è stata più volte discussa in Commissione Attività Produttive, e noi siamo stati tra i protagonisti, tra coloro i quali chiedevano hanno più prezzo. Ma si può tornare indietro oppure la cessione arriva? Io penso che si deve tornare indietro, perché peraltro c'è un altro elemento. Noi vogliamo che si muova affinché l'attuale socio privato possa esercitare il diritto di prelazione, esatto, in modo che l'azienda va non bene. Vada. Allora, noi continueremo a seguire questa vicenda, perché regali agli amici degli amici, grazie, no, continuate su Radio 24.